Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori dietro la notizia. Oggi sulle prime pagine dei giornali la condanna di Callisto Tanzi per il caso Parmalat, 10 anni per aggiotaggio, assolti tutti gli altri imputati, così il Sole 24 Ore. Il Tribunale di Milano ha condannato a 10 anni di reclusione Callisto Tanzi al termine del processo per aggiotaggio e ostacolo all'autorità di vigilanza, assolti invece Bank of America e i suoi manager. Per i giudici la banca ha diritto addirittura a un risarcimento. Ecco, ne parliamo con Giuseppe Oddo. Buongiorno Giuseppe Oddo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Giuseppe Oddo è redattore inviato del Sole 24 Ore, ha scritto oggi un commento, quell'unico colpevole, e ha rifatto la cronaca di questi avvenimenti che ha seguito praticamente dall'inizio questo caso Parmalat, appunto. E allora è un po' una sorpresa questa sentenza, Beppe Oddo. Ma una sorpresa solo in parte, in effetti già l'altro giorno, alla fine del dibattimento, così parlando insomma, in aula anche con i pubblici ministeri, eccetera, circolava già qualche preoccupazione, perché il problema è che diciamo, i fatti in cui l'aggiotaggio era visibile risalgono al 1999 e questi fatti sono andati prescritti per la legge Cirielli. E quindi c'era la preoccupazione che lo schema, che poi comunque è stato ripetuto in questo schema delle operazioni successive, il reato di aggiotaggio non fosse, diciamo, per quanto riguarda Bank of America, così visibile. Ed evidentemente è quello che i giudici hanno ritenuto, e da qui anche l'assoluzione dei manager, l'approfondimento dei manager di Bank of America e quindi della Bank of America stessa come responsabile civile, che in caso di condanna avrebbe invece dovuto risarcire i risparmiatori. Ecco, quindi questa sentenza è una sentenza per aggiottaggio che ha come conseguenza il fatto che i risparmiatori non saranno risarciti, non avranno un risarcimento del danno. Ecco, io ricordo gli ascoltatori, il numero verde 800 24 00 24. Quindi sotto questo profilo ormai, Beppe Oddo, possiamo considerare che la vicenda da un punto di vista giudiziario sia chiusa, anche se probabilmente ci saranno dei processi di appello, però abbastanza lunghi, e quindi per i risparmiatori che invece vorrebbero forse ottenere una giustizia più rapida e una possibilità di risarcimento più rapido, mi sembra che la situazione, le prospettive siano abbastanza grigie. Le prospettive sono grigie per i risparmiatori, ma anche per la stessa Parmalat, perché naturalmente si erano costituiti parte civile sia a decine di migliaia di risparmiatori, ricordo i 40.000 risparmiatori dell'ex San Paolo IMI, e sia la stessa Parmalat, sia il commissario straordinario Bondi. Adesso vedremo stamattina come reagirà la borsa di fronte a questa notizia, però penso che non reagirà bene, perché diciamo che le prospettive erano quelle di una crescita, diciamo, della Parmalat anche sulla base del risarcimento del danno che sarebbe dovuto venire, arrivare dai processi, e che avrebbe dovuto permettere alla Parmalat di svilupparsi sui mercati internazionali attraverso delle acquisizioni. In parte questi risarcimenti sono venuti, diciamo, dalle transazioni che hanno fatto le aziende, no? Ma naturalmente l'esito di questo processo rischia di compromettere anche gli altri, in particolare i procedimenti che sono in corso negli Stati Uniti, che sono dal punto di vista economico quelli più sostanziosi. Ecco, da questa vicenda emerge proprio che mentre appunto le transazioni che sono avvenute attraverso gli accordi particolari con per esempio con i revisori, con le altre banche come UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, hanno fatto dei passi avanti, e quindi per esempio Parma ha ottenuto un risarcimento dalla stessa Deloitte per chiudere l'azione legale, ma invece sul fronte giudiziario si è dimostrato maggiori difficoltà in un certo senso proprio a fare giustizia. Questo secondo te, Beppe Oddo, ricordo Beppe Oddo ha inviato del Sole 24 Ore che ha seguito tutto il caso Parmalat, è dovuto a una carenza della legislazione italiana, al fatto che in fondo i giudici italiani si sono trovati di fronte a un caso diciamo così straordinario, che difficilmente poteva essere previsto secondo alcune le vecchie regole giuridiche. Ecco, quindi dipende da una carenza della legislazione che non offre la possibilità di affrontare questi temi in termini appunto moderni, tenendo conto di tutti gli interessi in campo, oppure siamo di fronte anche a un fatto che la magistratura ha fatto solo degli accertamenti da un punto di vista più penale che non amministrativo contabile, e quindi ha passato in secondo piano gli interessi dei risparmiatori, gli interessi appunto del risparmio complessivamente. Beppe Oddo. Ma io credo che appunto l'assenza di una class action in Italia non favorisce l'azione dei risparmiatori, e qui va detto che appunto su questo punto non sono stati fatti passi avanti. Negli Stati Uniti le cose procedono diversamente, abbiamo visto come in passato con il crack della Enron, della WorldCom, appunto le grandi banche hanno dovuto accantonare miliardi di euro per risarcire i risparmiatori. In Italia molti risparmiatori sono dovuti affidare alle associazioni dei consumatori o ai loro legali, e bisogna dire che in diversi casi i tribunali hanno dato ragione anche a loro. Naturalmente questa vicenda dà molto da pensare e potrebbe creare anche, come dire, un ripensamento, un'inversione di tendenza. Adesso è da capire se il risarcimento di 80 milioni di euro che è stato riconosciuto a Bank of America è appunto un risarcimento effettivo oppure un ristoro delle spese processuali. Adesso questa dovremmo capirlo bene. Naturalmente bisognerà poi leggere le motivazioni della sentenza fra alcuni mesi, perché quello che è stato diffuso ieri è soltanto il dispositivo. Ecco, c'è un ascoltatore con un sms 349-238-6666 che ci chiede quanto hanno influito le modifiche legislative attuate negli ultimi anni. Già tu, Beppe Oddo, hai accennato alla legge Cirielli, c'è stata anche una depenalizzazione del falso in bilancio. Ecco, come queste modifiche legislative degli ultimi anni hanno influito sul processo Parmalat e sulla sentenza? Hanno influito pesantemente, perché la depenalizzazione del falso in bilancio ha costretto i magistrati sostanzialmente ad aggredire diciamo questo procedimento attraverso il reato di aggiotaggio, e non era chiaro che con questo reato si potesse, come dire, ottenere un grande risultato, come poi si è visto. Quindi diciamo sicuramente la depenalizzazione del falso in bilancio è stato un danno enorme, perché la vicenda Parmalat è tutto un falso in bilancio, cioè sappiamo benissimo che Tanzi, Tonna e i suoi sodali avevano costruito questa fabbrica di falsi con questa società nelle Cayman, la Bollat, dove venivano costruiti questi falsi crediti, questa falsa contabilità, a fronte della quale questa falsa liquidità che a un certo punto era montata a più di 4 miliardi di euro, a fronte della quale la società emetteva dei prestiti obbligazionari. Quindi da questo punto di vista è stato sicuramente un danno. Poi è anche intervenuta la Cirielli, che ha allungato, che ha accorciato i termini di prescrizione, e questo, come abbiamo visto, come dicevo prima, è stato un danno per quanto riguarda alcuni fatti, soprattutto i fatti che portarono all'aumento di capitale della Parmalat Brasil, della consociata brasiliana della Parmalat, un'operazione curata da Bank of America, dove lì, secondo l'accusa, l'aggiotaggio era molto evidente. Adesso, per quanto riguarda il processo di Parma, dove Tanzi e tutti gli altri, le banche, sono sotto processo per bancarotta, lì la Cirielli naturalmente avrà meno influenza, perché i termini di prescrizione sono più lunghi, quindi vedremo che cosa succederà. Ecco, infatti un altro ascoltatore ci chiede sempre un sms, ma c'è anche un processo aperto per bancarotta, cioè per il fallimento dell'azienda di Parma? Sì, A Parma, tra l'altro, c'è uno spezzatino di processi, perché abbiamo un troncone principale in cui sostanzialmente ci sono gli stessi imputati che abbiamo a Milano, dove anche a Parma ci sono già stati moltissimi patteggiamenti, e questo è un processo che è già cominciato ed è nella fase dibattimentale. Poi abbiamo tutta una serie di processi, chiamiamoli laterali, ma non per questo secondari, dove sono che non tutti nella fase dibattimentale, alcuni in fase, diciamo, in fase di udienza preliminare, quindi diciamo un po' disallineati, dove sono imputate, diciamo, i manager bancari e le stesse banche. Quindi adesso l'idea iniziale, e in questo senso avevano molto insistito le difese, soprattutto la difesa di Callisto Tanzi, era che si dovesse andare verso un accorpamento di tutti questi processi, quindi verso un unico maxi processo. Idea che la Procura e anche il Tribunale ha rigettato, perché questo a loro giudizio avrebbe dilatato oltre misura i tempi processuali, quindi facendo avanzare il rischio della prescrizione. Adesso naturalmente questi processi sono abbastanza indietro rispetto a quello di Milano che si è concluso, occorreranno secondo me alcuni anni e bisogna vedere, una partita ancora aperta, ripeto. Naturalmente, per quanto riguarda il reato di bancarotta, che è il reato più grave, i tempi di prescrizione sono molto più lunghi, nonostante siano stati ridotti dalla Cirielli, quindi naturalmente ci sono maggiori speranze che i colpevoli, diciamo, siano pesantemente condannati. Ecco. Poi bisogna dire che comunque la condanna di Tanzi è stata una condanna esemplare. Stiamo parlando con Giuseppe Oddo, inviato del Sole 24 Ore, del caso Parmalat, della condanna del patron di Parmalat, Callisto Tanzi, a 10 anni per aggiottaggio. Simone da Viterbo, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere al giornalista Giuseppe Oddo se consiglierebbe, con queste leggi che ci stanno, ancora di investire alla gente, diciamo. Tutto... Grazie, mi sembra una domanda molto, molto chiara. Penso che si possa innanzitutto rispondere, tolgo un attimo la parola a Beppe Oddo, nel senso che bisogna continuare ad avere fiducia e investire. Questi casi sono eccezioni che non dovrebbero turbare appunto la regola di fondo, che i meccanismi di mercato sono meccanismi tali che ovviamente presentano dei rischi, ma presentano anche delle grandi opportunità. Ovviamente le leggi vanno aggiornate anche sulla base di una società che diventa più complessa, di una società che cambia, di una società anche finanziaria che, come abbiamo visto dalla crisi che è ancora in atto, presenta degli aspetti che certamente anche il legislatore più avveduto forse non poteva prevedere, ma aspetta a un insieme di leggi, di regole e di mercato poi far tornare l'equilibrio. Però lascio adesso la parola a Beppe Oddo. Con le leggi che ci sono, comunque una protezione del risparmiatore esiste. Beppe Oddo. Sì. La domanda del risparmiatore, insomma, mi sembra abbastanza retorica, cioè il problema è, ricordiamo che proprio dopo l'esplosione, prima del caso Cirio, poi del crack Parmalat, ci fu una grande discussione sulla tutela del risparmio in Italia, grandi audizioni in Parlamento, addirittura fu fatta anche una legge, eccetera, che però è stata, come dire, la classica montagna che ha partorito il topolino, no? Abbiamo visto anche come poi, diciamo, successivamente anche nella grande crisi finanziaria che è avvenuto in questi mesi, come poi, diciamo, non vi sia in Italia una grande tutela del risparmio. Quindi sicuramente su questo piano il governo deve fare di più, e io penso che appunto il provvedimento sulla class action sarebbe un provvedimento molto urgente, perché naturalmente la possibilità dei risparmiatori di procedere con azioni collettive in casi come quello della Parmalat naturalmente li rafforzerebbe. Sì, indubbiamente, il provvedimento sulla class action è un provvedimento di cui si è parlato molto, che aveva degli aspetti per cui lasciava anche aperte le possibilità di abusi di questa class action per poter fermare appunto alcuni interventi, alcune iniziative, e l'augurio appunto che su questo fronte si possa tornare ad avere un provvedimento che sia efficace in casi come quelli in cui ci sono degli interessi collettivi da difendere, e ci sono da difendere anche gli interessi e la stessa immagine del mercato. Mercato che deve funzionare con delle regole e che funzionando bene può garantire appunto al risparmio la giusta protezione, la giusta tutela, ma anche la giusta crescita, perché una società in crescita può offrire e deve offrire al risparmio tutte le tutele. Penso che sia in linea Roberto da Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare solo una semplice riflessione. Mi si è concesso che la Parmalat ha evidenziato che si sono bucate tutta una serie di reti di vigilanza a partire dai revisori, Banca d'Italia e Consob. A questo punto volevo capire, fare la riflessione, diciamo, con il che oggi, sulla scorta dell'esperienza della Parmalat, quali procedure possono essere adottate soprattutto dagli organi di vigilanza in termini di rischi creditizi tra Banca d'Italia, Consob, perché oggi secondo me non esiste uno strumento per valutare, cioè quando ci sono degli utilizzi anomali in centrale rischi, quindi il flusso di ritorno della Banca d'Italia, la stessa Consob, vorrei capire che effettivamente che procedure possono essere utilizzate proprio in funzione dell'insegnamento che ci ha dato la Parmalat, perché con la Parmalat sono bucati tutta una serie di organi di vigilanza. Certo, la ringrazio. Non dimentichiamo che il caso Parmalat comunque è stata una truffa, è stata una falsificazione di documenti, e quindi la vigilanza di fronte anche a documenti falsi deve lasciare poi lo spazio ad altri interventi che riguardano appunto la Guardia di Finanza, che riguardano la giustizia, che riguardano la stessa polizia. Ecco, ovviamente un caso particolare che giustamente deve dare i propri insegnamenti, ma anche la massima vigilanza può avere anche dei fallimenti, può avere anche dei buchi se ci sono dei comportamenti truffaldini, dei comportamenti che mettono a repentaglio la correttezza degli affari. Questo è vero non solo in Italia, vediamo quanto è avvenuto con altrettanti fallimenti negli Stati Uniti. Beppe Oddo. Sì, tu hai detto bene, il caso Parmalat è stato una grande truffa, come anche il caso Madoff negli Stati Uniti, no? Il caso del presidente del Nasdaq, che è sulle prime pagine dei giornali in questi giorni, che ha creato questo buco da 50 miliardi di dollari. Però diciamo, bisogna dire, nel caso della Parmalat, ma anche nel caso di Madoff, che naturalmente qui i sistemi di controllo hanno fatto acqua, cioè nel caso della Parmalat, come nel caso dell'Acirio, c'erano state delle avvisaglie, c'erano stati anche dei segnali ben precisi. Qualche anno prima del crack, per esempio, ricordo che nella vicenda Acirio il collegio sindacale aveva fatto una serie di denunce circostanziate alla Consob, in cui diceva che sostanzialmente Cragnotti prelevava dalle società sottostanti dell'Acirio centinaia di milioni di euro, le portava nelle sue società di famiglia domiciliate ai Caraibi, che questi soldi sparivano, e la Consob, diciamo, per impugnare il bilancio ha poi aspettato che l'Acirio finisse in insolvenza. Ecco, la qualche problema è successa per esempio nella Parmalat, dove certo C'era stato il fondo Hermes, che aveva denunciato una serie di anomalie, e il documento era all'attenzione della Consob, la Consob non fece niente. Per paradosso, adesso la Consob fermarti qua, certamente qualche cosa era stato denunciato, e certamente anche sotto il profilo della vigilanza qualche fallimento, qualche ostacolo c'è stato, o qualche incapacità di comprendere in tempo i problemi. Io ringrazio Giuseppe Oddo, che ha scritto il commento sul Sole 24 Ore di oggi alla condanna di Tanzi, ringrazio Carmelo Loricello in regia, ringrazio gli ascoltatori, l'appuntamento è per lunedì.